Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo mio coming out dedico a moltissimi fantastici sacerdoti omosessuali. Vorrei che siano felici perché sono ottimi sacerdoti, almeno quelli che conosco io. Devo dire alla mia chiesa che non possiamo più odiare minoranze sessuali, perché così odiamo l'umanità. Io ho detto alla persona che amo, al mio Eduardo, senza di lui, vieni qua, senza di lui non saprei come trasformare la mia paura nella forza dell'amore, di ciò che celibato significa e di ciò che questa disciplina. Era il 3 ottobre 2015, ci si apprestava a dare l'avvio al grande sinodo sulla famiglia, di cui una delle questioni all'ordine del giorno era proprio il discusso e controverso tema delle unioni civili. Un importante personaggio della gerarchia ecclesiastica, Christoph Haramscha, ufficiale congregazione dottrina della fede dal 2003, quindi quello che una volta era il Sant'Uffizio, era un ufficiale dell'Inquisizione, quindi quello che all'interno della Chiesa osservava tutti gli elementi di trasgressione e digressione della dottrina. Insegnava teologia alla Pontificia Università Gregoriana, al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma, insomma una persona molto in vista, vicino ai papi, al centro della Chiesa. Fa un gesto clamoroso, clamoroso anche molto ben studiato dal punto di vista del format. Fa una conferenza stampa e dichiara che lui è omosessuale, lo fa assieme al suo fidanzato, lo fa in abito talare, quindi vestito da prete, quindi sembra un gesto clamoroso per creare clamore. La Chiesa, che è abituata anche ad altro, lo assorbe immediatamente e dopo un po' non se ne parla più. Christoph Haramscha però scrive un libro, che uscirà dopodomani, La prima pietra, Io prete gay, la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa, edito da Rizzoli. Un libro dove racconta la sua storia, un libro che tutti si aspettano, pieno di inconfessabili segreti, quello che accade all'interno della Chiesa. Usa la mano molto leggera, ho letto questo libro, non viene a raccontare altarini segreti, dice qualcosa di fondamentalmente evidente sotto gli occhi di tutti, che il tema della sessualità comunque è uno dei temi caldi all'interno del dibattito attuale, ma ancora di più che sulla questione della gestione dell'omosessualità, di tutto quello che è l'uscita dalla regola, di quella che la dottrina della Chiesa prescrive per la condotta sessuale, è un tema che sta esplodendo. Lo fa in maniera dettagliata, lo fa da teologo, lui è un teologo, attualmente ha studiato, ha creduto per 17 anni in quello che faceva, perché sennò non sarebbe stato all'interno di un organismo così attento nel controllare la fedeltà delle persone che lo rappresentano, e a un certo punto compie questo gesto. Compie un gesto di cui ci darà ragione, ci racconterà fra qualche istante dopo le informazioni del traffico. Intanto lo saluto. Buongiorno, Don Christoph. Grazie, buongiorno. Lei vuole essere chiamato Don Christoph, ma non potrebbe essere chiamato donna. No, perché no? Io sono prete per tutta la vita. Ma l'hanno spretata però completamente. No, ma in realtà io penso che spretare non si può. Perché sì, vabbè, lei in io realtà sono è sospeso nell'esercizio. Però non può fare nulla. Non può fare nulla delle funzioni sacerdotali. Non, nemmeno una messa da solo. Né la messa da solo, né confessioni, né altri sacramenti. Solo se, ecco, se io vado a sbattere, mi schianto con la macchina, può confessarmi. Quello può sì, farlo. Sì, in caso esattamente in pericolo di morte. Solo in pericolo di morte. Ma quindi guardi, se uno sta per morire vale anche un prete gay per confessare. Sì. Ma ride, credo concedente da ridere, io non riderei. No, perché no? Io in realtà sono più prete oggi che prima. Sono libero dai formalismi e dai legalismi. Ce lo racconterà fra un istante dopo le informazioni del traffico, questo è molto interessante. Lei si autoproclama prete. Lo è in assoluto. No, questo è alla luce della dottrina cattolica. Sì, sì, io rispetto la dottrina cattolica a pieno. Io sono prete disoccupato. Cioè, prete. Ma il rapporto col Padre Eterno com'è per un prete disoccupato? Oh, fantastico. Mamma mia. Che dialogo continuo. Che pace, che serenità, che grazia. Sono felicissimo. Adesso non faccio il personaggio. Fermiamoci un istante, mandiamo le informazioni del traffico, sentiamo fra un po'. Melog. Cronache meridiane. 800 24 0024. Ricordo che abbiamo in studio Christoph Haramsha, che è l'alto prelato teologo che il giorno meno adatto dal punto di vista strategico per salvaguardare comunque l'integrità della Chiesa, ma più adatto per lui perché se ne parli fa coming out, lo fa con il suo fidanzato, lo fa in una conferenza stampa e naturalmente la Chiesa prende le sue necessarie contromisure. Oggi è ridotto allo stato laicale, questo è il termine esatto. Sono solo sospeso. Sospeso, è sospeso dalla funzione sacerdotale, è diventato scrittore, vive con il suo compagno a Barcellona, mi sembra. Sì, no? Sì, è un politico, cos'era? Un amministratore? No, è un economista. Un economista di Barcellona, vivono tranquillamente come tante coppie che vivono tranquillamente, però non è proprio un percorso che è passato inosservato, tanto che dopodomani esce questo libro, un libro dove racconta tutta la sua storia, racconta anche i motivi. Cosa è accaduto un istante dopo che ha finito la sua conferenza stampa, quel famoso 3 ottobre? Poi ho sentito in quel momento che è stata fatta una conferenza stampa in Vaticano dove si è detto che non lavoro più al Vaticano. Sei stato subito licenziato. Sì, e questo mi ha dispiaciuto molto. Perché... Beh, cosa pretendevi? Ti no, bravo. Pretendevo, avevo negli orecchi ciò che diceva Papa Francesco, che noi siamo come ospedale da campo, che andiamo a cercare a ultimo perduto, a ultimo che si è perso e che vogliamo salvare. Dunque, andiamo a cercare quel fratello perduto, parlare con lui, ascoltare, ma che è successo fino a ieri? E niente. Ma tu non è che l'hai fatto in maniera proprio del tutto neutrale. Fatto. Ogni tanto mi scappa il tu, perché non vi immaginate un vecchio barbone, un ragazzetto, un giovane ragazzo, anche bravo, perché nel senso che a 40 anni già era arrivato abbastanza in alto nella gerarchia ecclesiastica. Grazie. Per quelli che dicono è stata una forma di furbizia, adesso fa un libro, fai soldi così. A te conveniva da un punto di vista strumentale rimanere dove stavi? Certamente. Cosa avresti avuto? Potevi fare quello che volevi, sì. Sì. Potevi anche avere fidanzati, mariti, tutto quello che volevi, mogli. Tutto. Avresti avuto un bello appartamento, magari andando avanti. Quale sarebbe stato molto bello. Il passo avanti, quale sarebbe stato dal punto di vista della carriera? Se tu continuavi con quel tipo, diciamo, di progressione. Diventavi vescovo? È possibile, sì. Non era difficile? No, non era difficile. Questo si poteva arrangiare facilmente. Quanto ci sarebbe voluto? Ma neanche molto. Eri anche vicino, molto, diciamo. Penso. Però io ero... Ma eri in un posto di potere. Io ero anche contento nel lavoro che facevo attualmente. Non è che cercavo anche una carriera futura e conquista. Io ero responsabile per una commissione teologica. Dimmi esattamente cosa facevi dentro. Io ero Tanto ormai continuerai tu, perché mi sembra sì, difficile. Sì, grazie. Che mi piace questo rapporto con un prete, proprio... Dargli del tu, perché un prete è un fratello. Un prete con gli occhiali arancioni e fazzoletto fucsia. E perché no? All'occhio vuole la sua parte. Poi tu dici una cosa molto interessante. Diceva il mio esegeta biblista, che era sempre elegantissimo quando spiegava la scrittura, e una volta uno dei nostri amici diceva: Ma padre, ma lei occhio vuole anche la sua parte. Tu dici una cosa molto interessante. C'è una piccola cattiveria, ma è oggettivo, lo diceva anche la compianta antropologa Ida Magli. Sì. In realtà si consuma una palese, reale omofobia all'interno della Chiesa, quando dal punto di vista dell'estetica gay è il luogo in più che è rappresentato, sembra la cage folle. Sì. Dici tutti i cardinali vestiti di rosa, di fucsia, con i merletti, letrine, con le gonne, le chiami come le principesse svolazzanti, qualcosa del genere. Siamo innamorati di queste forme, ma le forme spesso sono anche la prigione, sono anche, per così dire, ciò che ci immobilizza, ciò che ci divide dal mondo, ciò che diventa il muro, una certa protezione, un impermeabile del mio mondo, e guardi che così nascono tutti i fondamentalismi, tutti gli integrismi, tutti i tradizionalismi insopportabili. Andiamo alla storia, se no, intanto sì. La gente, se vuole, può chiamarci 800 24 0024, se ha domande da fare, curiosità, è qui con noi l'ex monsignore, ancora prete, naturalmente un puttista dell'investitura, però i gradi comunque li ha persi. Stando dentro 17 anni, 17 anni in posti chiave, tu stavi in quello che si chiamava una volta il Tribunale dell'Inquisizione, quindi ti passava per mano tutte le cose più segrete. Penso che sia difficile che tu potessi coltivare semi di dissenso senza essere preso sotto. Quindi sei stato fedele fino a che sei stato dentro. Sì. All'istituzione. Sì. Ci credevi, eri convinto fosse la cosa migliore. Tutta la mia vita. Fino al momento quando inizia un processo cosciente di revisione o di ciò che si potrebbe chiamare la crisi, ma nel senso positivo, greco della parola, cioè la crisi che è l'occasione della crescita, della maturazione, che è arrivata e che è arrivata con mia identità. Per farmi capire, all'interno dei tuoi colleghi, delle gerarchie, non credo che tu nascondessi la tua omosessualità o la nascondevi? Ma certo, ma... Non c'era una sorta di tacito consenso? Nessuno... Assolutamente no. No. Ma anche il mio stile di vita penso che mai non farebbe percepire che io fossi... Perché io semplicemente ero sotto i dettami della mia chiesa. E... Tu dicevi io mantenevo il celibato, perché il celibato si riferisce sì, ad atti con donne. Guardi, io vorrei... questo tema forse mi è molto sarebbe interessante entrare in dialogo con i lettori del libro quando vedranno la spiegazione della complessità di questo tema. Sì, è molto tema complesso, però dobbiamo cercare di semplificarlo, perché tutto è semplificabile. Io penso prima di tutto, mi piaceva quando parlavi, se posso dare del tuo... Hai usato parola traditore, è molto interessante questa parola. È chiaro, per la maggior parte sì. Degli osservanti sei un traditore. Sì, è vero, nelle apparenze sono il massimo del tradimento che ci può essere, spettacolare. Perché mediatico. Ti hanno dato molto, questo, ti metto dal punto di vista dei tuoi ex colleghi. Sì, gli abbiamo dato molto, l'abbiamo fatto crescere, l'abbiamo tenuto dentro. Sì. Sapeva poter continuare comunque a coltivare il suo vizio e avremmo chiuso un occhio. E ci ha voluto sputtanare proprio nel giorno in cui era meno adatto. E lui non ha accettato che fosse classificato come vizio. Lui non ha accettato la stigmatizzazione. Lui non ha accettato quello spazio di tranquillità, di serenità in cui dovrebbe continuare come fariseo. Ma tu potevi come dire, ho un vizio, mi pento ogni volta che lo compio e vado avanti. Ma potevi dirlo questo? Avresti sopravvissuto tranquillamente all'interno dello... Tu dicevi, ho un vizio, scusatemi, ogni tanto mi capita, però mi pento. No, io non mi... Io non mi lasciavo a nessun vizio. Sì, ma in assurdo, se volevi continuare a fare le tue scelte di vita personale, affettiva, potevi dire, ogni volta, perdonatemi, è un vizio, sono caduto, non cadrò più, e poi alla volta... Questo funziona così. E andare così. Avanti. Funziona o addirittura non chiedere perdono a nulla e andare avanti. Funziona così per molti altri tuoi colleghi? Sì, la regola è funziona questa. Così, sì, funziona così. Ma io penso che io sarei traditore rimanendo. Se rimanevi io dentro. Io proprio nell'atto della liberazione, del coming out, mi sono liberato dal pericolo di essere traditore. Dico, mi sono fatto fuori prima di creare un danno grosso stando dentro. Danno grosso a me stesso. Nel rapporto col Padre Eterno, penso, perché all'istituzione non faceva nessuno. No, ma anche con la mia coscienza e con la felicità della vita. Perché alla fine il formalismo, il fariseismo, l'ipocrisia non ci fanno felici. Sentiamo tre telefonate, tre ascoltatori subito. Corrado, velocemente. Corrado, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, io volevo solo dire che secondo me quel signore lì è un perverso. Perverso perché, in che senso? Ma in che senso? Perché voglio dire, ok che dobbiamo accogliere, nel senso non essere omofobici, ma stiamo esagerando. Io accetto adesso gli omosessuali, ma dai, un prete, ma per piacere. Perché no, secondo lei, scusi, preti omosessuali è una cosa che non si è mai sentita dire nel mondo. Appunto, no. Ma perché adesso dobbiamo spiattellare? Cioè è meglio tenerlo... ho capito, perché dobbiamo accettarlo? Non ho capito, ma è assurdo. Cioè, la fa finta di niente? Non so, io non voglio prendere... Ma non fa finta di niente. Appunto, allora, innanzitutto, appunto, dovrebbe essere una cosa vietata. Ci sono, ma perché adesso addirittura dobbiamo... Cioè, dobbiamo accettarlo, è quello che voglio dire. Vabbè, lei non lo accetta, la sua posizione è chiara. Mario, buongiorno. Pronto? Sì, Mario. Pronto, mi sente? Sì. Niente, no, io volevo solo dire, probabilmente che non sono certo un grande osservante, ma mi sembra che alla fine la cosa nella sua chiarezza sia almeno, abbia almeno questo pregio, perché un'istituzione come la Chiesa o si sta dentro o si sta fuori, lui ha scelto di restare fuori e è finita lì, insomma. Scelta coerente. Nient'altro da dire, direi, dopo un po' di pubblicità, per carità, il libro, cioè, per carità, giusto, tutti devono campare, vero? Sì, però la cosa volevo dire, per essere onesto fino in fondo, sì, chiaro, farà molta pubblicità al libro, ma vuol mettere un libro, per quanto avrà successo, è un grosso editore, sarà un libro che tutti cercheranno, compreranno per vedere dentro cosa c'è di morboso e non c'è quasi nulla. No, sì, però mi creda, a lui avrebbe fatto, sarebbe stato più conveniente rimanere a fare l'alto prelato, ma si rende conto che appartamenti stanno gli altri prelati a Roma? E cosa può entrare e uscire da quegli appartamenti? Tutti stanno in grande alto, non era mica il segretario di Stato alla fine. Ma stava al Vaticano. Sì, per carità. Ma non era un poveraccio, guardi, ha dei ruoli importanti. Sì, beh, ma insomma, alla fine una certa coerenza può anche essere apprezzata. Ah, perfetto, apprezza la coerenza. Vincenzo. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. No, chiedevo, cioè, mi domandavo che negli obblighi, insomma, dei preti, insomma, quando uno esercita la professione, non ci sia il fatto di poter avere sia una moglie o un marito. È chiaro, cioè, c'è l'obbligo del celibato, se no non c'è l'obbligo del celibato. Nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana il prete è celibe. Latina solo. Sì. Sotto l'aspetto umano, uno dice sotto l'aspetto personale, io non ho niente contro gli omosessuali, assolutamente, sono persone come gli altri, è giusto che si amino. Però non può essere un prete che contraddice a questa regola. Scusi, ma allora se tutti i preti che compiono atti sessuali dovessero essere allontanati, rimarrebbero, penso, tre vecchi parroci prostatici, finirebbe lì la chiesa. Allora ci vanno bene tutti e facciamo pure... No, non ci vanno bene tutti, siamo qui per capire, non diamo giudizi. No, infatti, ma cioè, io penso in un modo, se un prete, diciamo etero, diciamo così, no? A un certo punto si innamora di una donna, niente, il mio Dio dice che non posso stare con questa donna finché sono prete. Guardi, lei va esattamente. Molti preti si innamorano di donne, abbandonano lo Stato e si sposano. Esiste un'associazione di preti sposati, di mogli di preti sposati. Penso, e poi mi correggerà se dico qualcosa è sbagliato, ma fra un istante dopo l'informazione della borsa, che Christopher Ranscia dice: anche io ho la stessa esigenza, amo una persona, voglio starci assieme, e quindi esco e lo dico, non che su di me l'anatema deve essere diverso o più forte. Sarebbe l'ideale che la Chiesa Latina, visto che è la Chiesa che chiede ancora cattolica, apostolica, diritto latino, esatto così, ammettesse anche le unioni fra i suoi sacerdoti, si potrebbero sposare. Poi sarebbe un altro problema, si potrebbero sposare, sì, ma uomini con donne. E poi tu vorresti anche il passo successivo. Fermiamoci un istante, mandiamo la borsa, poi sentiamo. Questo è il punto fondamentale. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024 abbiamo in studio Christopher Ranscia, che è l'alto prelato che il 3 ottobre 2015 fece pubblicamente il suo coming out e che ora ha scritto un libro, La prima pietra, Io prete gay, il sottotitolo è La mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa, editore Rizzoli. Vediamo allora Christopher di rispondere a tutti i nostri ascoltatori. Sono tre domande che rappresentano però tre tipologie di approccio rispetto a quello che tu hai creato, che hai rappresentato. Il primo ascoltatore dice: se tiriamo fuori sta roba, preti gay, ma che c'è bisogno di dirlo? Come classifichi questo atteggiamento? E soprattutto grazie per la trasparenza e la sincerità di tre signori. È curioso che sono i maschi che commentano. Ma io risponderei solamente a una frase che... Vuoi parlare con delle ascoltatrici donne? Allora, 800240024. No, è importante perché sentire solo il parere dei maschi, rientriamo nel grande serraglio degli amiconi. Voglio sentire delle ascoltatrici, sono molto attente, cosa ne dico? Ma è una cosa interessante che ha detto il terzo radioascoltare, quando dice: ma ormai Dio vuole così nella Chiesa è perché si dovrebbe cambiare qualcosa. Dio vuole preti celibi, ma Dio non vuole. Ma tu sei un teologo, quindi non è che racconti. Celibato è una legge storicamente condizionata, socialmente e culturalmente spiegabile, non ha nulla a che fare con il Vangelo, è arrivata nel X secolo, può essere tranquillamente cambiata, non ci sono ragioni teologiche. Ma tu e i tuoi studenti la Gregoriana questo dicevi? No, assolutamente, perché io ho fatto un cammino di comprensione, questo anche grazie a Sant'Ufizio, proprio studiando i teologi che studiano celibato e dimostrano quanto le nostre ragioni, diciamo, vaticane o romane sono lontane dalla realtà del Vangelo e dalla realtà della nostra vita quotidiana. Allora, della facciamo Chiesa. Un esempio pratico per i nostri ascoltatori. Se dovessimo immaginare la giusta progressione che tu ti auspichi, e penso che non sarai il solo all'interno, diciamo, della gerarchia che si auspica questo. Il primo passo sarebbe la caduta dell'obbligo del celibato per i sacerdoti. Cosa comporterebbe? Chi vuole è celibe, chi non vuole si sposa. Esattamente. Come fanno già tanti. Come fanno? Alla luce della legge prevista, le chiese orientali, preti cattolici in Oriente, fanno questo. Hanno marito, hanno moglie. Esattamente, e sono cattolici sotto Papa Francesco, solamente che in un altro rito della Chiesa, non quello latino, ma insomma, vari non si può riti fare come quelli cattolici. Vanno a dare l'esame d'avvocato in Spagna, uno si sposta alle chiese orientali, si sposa e rimane cattolico e prete, non è possibile. Oggi questo diventa un... Si può fare. Guardi che molti dei preti orientali cominciano a seguire i migranti che arrivano qui in Europa. E i nostri cattolici cominciano a vedere che, oh mamma mia, con quei cattolici venuti io da Siria, da qualche altro, è arrivato anche prete, ma con tutta la sua famiglia. Potrebbe accadere che in Italia si aprisse una chiesa per cattolici siriani dove il prete ha la moglie. Ah certo, però attenzione, la Chiesa Cattolica, il Vaticano, vieta spostamenti di preti che sono sposati. Perché? E se non fa venire voglia anche agli altri. Perché, certo. Attenzione, perché cattolici qui non devono rendersi conto che ci sono preti sposati. Questo è... una cosa inconcepibile, sono le vecchie leggi del Vaticano dell'Ottocento. Allora, questo io lo considero un passo possibile, potrebbe accadere. Vedo un po' più difficile quello che poi è il succo e l'analisi anche teologica, perché lo fai in analisi teologica, non è che ti basi solo sul tuo estro, del tuo libro, che una volta che al sacerdote cattolico, romano, latino, è concesso sposarsi, sia anche concesso di avere una libera espressione della propria sessualità e la propria scelta. Sposarsi sì, ma se a me piacciono gli uomini voglio vivere una storia di affetto, di amore e di vita insieme con un uomo. Questo lo vedo un po' più difficile, o mi sbaglio? Domanda perfetta, e aggiungerei: mi piacciono gli uomini non per scelta, non per una mia strana perché idea. Perché sono vizioso, mi piacciono gli uomini per la natura. Sei nato così. Secondo passo, effettivamente, che si vede difficile, sono d'accordo, e si vede, lo mostrano i nostri radioascoltatori, che è molto difficile. Beh, è difficile accettarlo per i ragionieri e i commercialisti, pensa per i preti, ce ne vorrà di tempo. Ma in realtà è un passo evangelico che la Chiesa compierà. Sei convinto che accadrà questo? Oh, certamente, sì. Però questo contraddice un passo del tuo libro, dici che tutto il principio di autorità della Chiesa è basata sul controllo della sessualità, e quindi sulla repressione degli atti regolari. Perderà suo prestigio se si aprirà questa linea. Ritroverà la sua autenticità evangelica, ritroverà la fraternità dei rapporti, ritroverà il vero senso del cristianesimo. Io potrei rispondere con una immagine? E in realtà, per arrivare a quel secondo passo di accettare le vari orientamenti sani, naturali, orientamenti sessuali, identità sessuali, che non tutte sono eterosessuali, naturalmente, significa per noi cattolici reinterpretare la scrittura. Quella reinterpretazione che avviene continuamente nella storia del cristianesimo. Eravamo abituati che il mondo fu creato in 6 giorni. Ogni giorno 24 ore e Dio, cominciando con le lodi e finendo con la compieta, creava con i suoi strumenti. Ma non è così, questa è un'immagine. Beh, logico. Per dire, è logico oggi, però non logico 50 anni fa. Tu più ti approfondisci nello studio della scrittura, più ti astrai dalle metafore, sennò non saresti un teologo. Bene, e oggi la Chiesa mi dice: Dio ha creato Adamo ed Eva e dunque solo loro possono realizzarsi nell'amore. È logico? È antistorico, è chiaro. E questa è una immagine, ugualmente come immagine di quei 6 giorni. Dio ha creato umanità e ha creato a sua immagine. Ha creato a immagine dell'amore che è Lui, e nessuno non è escluso dell'amore. In tempo in cui la Bibbia è stata scritta, non si aveva minima idea di vari orientamenti sessuali. Nostri nonni non avevano idea di orientamenti sessuali. Penso che anche i nostri contemporanei molto... Però da 50 anni e più la scienza si è resa conto. Le scienze umane si sono rese conto. Ma tu parli di scienza, ti faccio una domanda scientifica. Esiste uno studio di prevalenza in termini scientifici di quanto sia diffusa l'omosessualità nella Chiesa? Nella Chiesa ufficialmente no, perché la Chiesa boccia questo tema, la Chiesa vieta studi sull'omosessualità, li rinchiude nel tabù. E questi studi sono necessari e dovranno avvenire. Esistono ovviamente gli studi. In America ci sono alcuni buoni libri che parlano, per esempio, di 60% di preti omosessuali, allora, nel clero. Dal tuo osservatore, tu sei nato con la consapevolezza che per te l'affettività era verso persone del tuo stesso sesso. Dici, la mia è un'idea anche molto virile, non rinuncio alla verità. Assolutamente. Però mi piacciono gli uomini, vabbè, non è sì. Che sono quelli che non so, mi piacciono gli uomini, che ci posso fare. Per me amore, affetto, riconoscimento, desiderio, tenerezza è un uomo e non è una donna, che ci posso fare? Mica posso cambiare il discorso. Cioè, grazie per questa descrizione. Vabbè, fantastica, banale. No, perché tu non lo hai centrato sul sesso, lo hai centrato sull'affetto e amore. È questo che è fondamentale. Ma è un'altra cosa. Io l'ho conosciuto, i preti tocconi, sono quelli che vengono e ti mettono le mani addosso confessando. Ma questo è pedofilia. Questa è un'altra cosa. Se sono i minori. Quindi tu dici che in realtà un buon teologo distingue fra queste due cose. Distingue il comportamento irregolare, vessatorio, vizioso se vuoi, dal comportamento totale affettivo. E siccome esistono persone che hanno questa natura, è giusto che queste persone si realizzino. Fermo. Dal tuo punto di vista, poi, dimmi cosa hai conosciuto all'interno di come viene vissuta, mascherata. Se non c'è bisogno di fare i nomi, che già è sin troppo chiaro e palese negli atti giudiziari dei processi. Come viene vissuta normalmente una situazione di persone che hanno in realtà questo problema di gestire una loro uscita dalla regola? Come la gestiscono normalmente questo probabile 60%? La gestiscono come si gestisce in una società omofobica, paranoicamente omofobica, cioè una società che ti stigmatizza, marginalizza, ti infonde un senso di vergogna, di schifo di te e di colpevolezza costante. Dunque tu sei un inferiore, tu sei uno che si sente peggio, difettoso e, come ha detto uno degli ascoltatori, un perverso, un patologico. Questo dicono i documenti della Chiesa. Tu affermi qualcosa che tutti si aspettavano esattamente contrario a quello che si pensava fosse il senso. Dice, non esiste una lobby gay. Assolutamente non esiste. Noi pensavamo ci fosse una sorta di lobby di preti gay che si difendono, sì, si organizzano, fanno le feste. Scelgono il Papa. Ma che... Non è così. Ma certo che no. Però esiste, però, dice, una sorta di... In ambienti ristretti esiste qualcosa di riconoscimento che esiste l'affettività fra uomini. Esiste. Ma certo. Ad esempio, ha una tradizione spirituale cattolica, cristiana profonda. Su questo ci sono degli studi che sono stati allontanati o stigmatizzati dalla Chiesa. Ma sintetizzami e cerca di rendere comprensibile questo concetto. Che poco nei primi secoli del cristianesimo, cristiani non erano paranoici contro le minoranze sessuali, che non intendevano bene che cosa c'è, perché abbiamo detto orientamento sessuale non si capiva. Lo si capisce da metà del XX secolo. Però c'era un'apertura al mistero dell'affettività umana. Un uomo veniva compreso attraverso l'amore, che è l'essenza del Vangelo alla fine, e che non si può negare a nessuno. Quindi esistono nelle comunità ecclesiali, potevano esistere, esistono tuttora, rapporti come fosse un matrimonio, solo che non sono sposati. Ma esistono anche i santi che sono stati in una relazione omosessuale, di amore omosessuale. È scritto Sergio e Bacchus. Esistono le storie in principio del cristianesimo in cui in realtà la eterosessualità non fu così sbattuta in faccia come unica norma intransigente, impossibile da... E quando è accaduto questa sorta di deriva fortemente omofoba nella Chiesa? C'è una data, un periodo? Sì, c'è una data. Questo è anche un po' il contenuto del mio libro. C'è un tempo, che è il tempo della scolastica, il tempo del Medioevo, quando... La donna era un verminaio, quando... Le descrizioni di Sant'Agostino delle donne era una cosa schifosissima. Agostino... E purtroppo permane in un certo complesso della sessualità e lui è legato a una storia San Bernardino, molto vivace. San Bernardino, o Bernardino. Poi ha delle pagine veramente orribili. Ma no, donna, sue, un masso di vermi, putrefatta. Ma anche contro gli omosessuali nelle sue però la struttura intellettuale omofobica, credo che qui San Tommaso non è superato da nessuno. Fermo un attimo, abbiamo un attimo una pausa, poi riprendiamo. Melog, Cronache Meridiane. 800 24 0024, Christoph Haramscha, il prelato che ha fatto una dichiarazione pubblica della sua omosessualità, per questo è fuori dalla Chiesa, ha scritto un libro che uscirà giovedì, La prima pietra, io prete gay, la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa, editore Rizzoli. Due telefonate prima di riprendere a parlare con Christoph. Angela, buongiorno. Buongiorno. Io sarò brevissima. Innanzitutto faccio i complimenti alla sacerdote, che merita di essere chiamato sacerdote, in quanto ha avuto il coraggio di dire: voglio vivere da povero, voglio vivere senza tutte quelle che sono le agevolazioni che mi vengono date dalla Chiesa, ma voglio essere me stesso. Viviamo in una società dove tutti vivono con una maschera, e riuscire a togliersi questa maschera e vivere serenamente, veramente, ho i brividi, veramente un grande. Magari tanta gente riuscisse a fare quello che ha fatto lui. Grazie Angela, fermiamoci. Elena, altra donna, ho chiamato le donne a raccolta, ecco, Elena. Sì, ah, buongiorno. Sì. Trovo fantastico questo prete che ha questo gran coraggio, però c'è l'unico problema che ho è riguardo, che lui sa molto molto meglio la teologia rispetto a me, però nel libro di Romani, dell'Evangelo, di San Paolo, che dice la frase citata, sì, da 26 in poi più o meno, insomma, oppure da 24, uno prende come vuole, però sono sempre parole ispirate. Cosa dice? Vediamo, la riassuma lei, cosa dice? Ah, ma io ho una Bibbia qui scritta in inglese, non no, so, ma lo dica, lo ridica con parole sue, sennò perdiamo un sacco di tempo. Cosa non no, fa? No, ma lui lo sa già, lui sì, è lì presente. Vabbè, nel fuoco, nelle fiamme, cosa deve succedere? Sì, sì. È vero, il testo che cita la signora ai Romani pare che parla di omosessualità. In realtà Lutero non era d'accordo, che è vietato che gli uomini stiano insieme. Se no cosa succede? Lo dice anche. Sì, succede un fuoco all'inferno. Fuoco dell'inferno, bruciati. Attenzione, questo passo effettivamente va interpretato nel suo contesto, e Lutero aveva una interpretazione veramente illuminata di questo passo. Lui diceva: qui di omosessualità non si tratta, qui si tratta di pederastia, di pedofilia. Cioè di ciò che sapevano di quei rapporti tra gli uomini in quel tempo, soprattutto della cultura greca. Cioè un uomo adulto che in un sistema di educazione, che nella cultura greca era normale, nella cultura greca aveva rapporto con un giovanotto o con quasi noi forse anche diremmo il suo allievo, forse anche il suo allievo minore. Lutero dice: qui Paolo ciò che condanna è la pederastia, la pedofilia. Per me questo, nel testo di Lutero, fu sconvolto, perché sono pieno di una crisi della Chiesa che oggi è toccata dalla pedofilia dei preti, dei sacerdoti, cioè degli uomini che dovrebbero portare l'altro a Dio, e invece lo corrompono, lo distruggono nel momento più intimo della sua crescita, più innocente, più indifeso. E la pedofilia nella Chiesa non è un effetto di influsso di un cattivo mondo su noi sani preti. No, la pedofilia nella Chiesa è frutto, in quella crisi che viviamo oggi e che in molte parti è purtroppo ancora nascosta, è frutto di una certa mentalità, ma di un certo sistema di pensiero. Mi spieghi se in realtà una teoria che mi sta dicendo un amico, cioè guarda, purtroppo funziona così, nelle famiglie arcaiche, contadine, rurali, ma anche fino a qualche decennio patriarcali, quando uno dei figli non dimostrava grande attenzione per le donne, quindi non era da sposare, per evitargli una vita di emarginazione lo facevano far prete. Quindi la Chiesa ha sempre accolto, diciamo, le persone che avevano un orientamento diverso. Certamente, nell'Ottocento è la normale realizzazione sociale di una persona omosessuale nascondersi nella Chiesa cattolica, e addirittura conquistavi così prestigio, facevi qualcosa di bene per la società, servivi questa società, altrimenti eri un vagabondo, morto di fame, allucinante, uno che non si sposa, uno che non realizza quei dettami della società, è uno strano. Ma è interessante che la Chiesa fino ad oggi vede così i omosessuali. E non immagini, dei viziosi da curare. Nel documento del 75 della Congregazione per la Dottrina della Fede si parla di un dato che riguarda ogni omosessuale. Si dice che ogni omosessuale rappresenta un in adattamento sociale, ai rapporti sociali, è uno fuori della normalità dei rapporti sociali, cioè io non posso realizzarmi normalmente nella società perché sono un strambo, un strano. Vabbè, era considerata fino a qualche anno fa una sorta di malattia. Quasi schizofrenia. Sì, venivano sì. curati con l'elettroshock. Oggi ancora ci sono i centri gestiti cattolici. Da cattolici. Dove ti rindirizzano. Questo è vero scandalo. Fermo un attimo. Gianni, buongiorno. Gianni. Buongiorno, sono Nicoletti, sì, buongiorno all'ospite. Suo punto di vista. Velocissimo, guardi, non riferito solamente a quello che stiamo dicendo, però quando parliamo così tanto, come dire, di omofobia, è un chiaro indice di decadenza. Io non ce l'ho assolutamente, però quando così tanto la stampa, la televisione, è indice di decadenza, guardiamo i romani, guardiamo i greci, solo questo, senza entrare nel merito della cioè romani e greci si inchiappettavano allegramente, nessuno ne parlava, era normale, questo qual è la cosa? Romani e greci, che c'entra? Il mondo si evolve, i rapporti si evolvono, i problemi vengono affrontati in maniera più articolata, se no ci fermeremo naturalmente, guardiamo i romani e greci, no, guardiamo avanti. Giorgio. Buongiorno, sì. Sono Giorgio da Pisa. Allora, vorrei ringraziare pubblicamente il Monsignore perché da omosessuale... L'hanno già promosso, non è meno prete per la Chiesa, Monsignore? Non è neanche, per me rimane prete in eterno, anche da ex seminarista. Lei è un seminarista, sì. Sono stato in seminario anni fa, anche in convento. E perché non è diventato prete poi? Allora, sono uscito prima di tutto perché ho trovato un ambiente opposto a quello che pensavo io, quindi un ambiente fatto solo di fronzoli e non pensavo alla sostanza, più o meno quello che ha detto il Monsignore. Vabbè. E poi una chiesa omofoba, nonostante la maggior parte dei sacerdoti e dei seminaristi che io conosco sono tutti omosessuali. E quindi ma lei è andato in quanto omosessuale, sarà fatto seminarista? No. La mia scelta è stata voluta col cuore, non per nascondere la mia omosessualità. Poi col discernimento. Vabbè, ah, questa è una sua scelta. Mi sembra una scelta. Allora, vediamo di concludere. Chiaro, grazie. Allora, Christoph Haramsha, vediamo su queste due telefonate, è proprio una battuta perché poi la sigla ci porta via. La tua ultima considerazione, questo perlomeno è un assaggio di quello che diranno i lettori del tuo libro, percentualmente è così. Oggi davanti alla Chiesa sta una grande sfida e questa sfida è rappresentata dalle minoranze sessuali, è per questo che tanto parliamo della sessualità dei gays, delle lesbiche, dei transessuali o intersessuali. Come sei una cosa? Come mai? Con i preti pedofili c'è un senso quasi di capirli, comprenderli. I gay invece nel rogo recitano San Paolo. Questo è, come mai? Mi questa spiega? È esattamente l'omofobia più portata, cioè, alla comprensione paura, no, questo è effetto di una paura che la Chiesa ha davanti a un dialogo, discussione, riflessione seria, oggettiva e tranquilla, serena, senza pregiudizi, senza stereotipi, cioè liberata da quel bagaglio di paura e di odio, di negatività. Ti hanno già invitato in televisione a parlare di questo libro? In qualcheduna, sì. Qua, dimmene una per capire. La RAI? In Italia o fuori? Italia, è qua che interessa. In Italia, sì. Bene, ieri sono stata alla RAI. Dove, da chi? Caffè Mattino. Ah, il Caffè Mattino, così in realtà è una missione per le famiglie. Ti è andata bene, è piaciuta? Vedremo sì, se vedremo. Sì. Ma è andata in onda? Questo non lo so. Rimarrà un punto, secondo me non andrà in onda questa idea. Va bene, ci vediamo, grazie. Vi ricordo il libro, esce giovedì, se volete leggetevelo, vi converrà secondo me leggerlo, perché almeno capirete di quello che stiamo parlando, che è un grande dibattito, anche molto controverso. Grazie, grazie Christoph Haramsha, in bocca grazie al lupo. Grazie infinite.